www.radiotrepod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli si continuano a fabbricare polli, Cappa e Drago pongono domande imbarazzanti all'amministratore delegato. Ma amministratore, ma lei non lavora mai? Possibile che ogni volta le telefoniamo sta fischiando, sta... Quando è che lavora? Perché insomma... Gli amministratori lavorano, dai. Non io sembra, ma... 24 ore su 24. Io non faccio l'amministratore delegato, io sono amministratore delegato. E quindi sono amministratore delegato in qualunque momento della mia giornata, sia che io stia dormendo, sia che io stia facendo porcherie con la mia signora, sia che io stia picchiando i miei figli, sia che io stia leggendo Sorrisi e Canzoni durante il consiglio di amministrazione. È questo che voi non volete capire. Ed è questo il motivo per cui voi rischiate di non diventare mai amministratori delegati, ma di rimanere degli pseudopolli da macellare. Quando nessuno lo vede, il confessionale elettrico della Cappella di San Gallo fa così. Sfila, sfila. Povero confessionale elettrico. Triste e solo nella penombra della cappella. Il tremolio delle candele votive accese dai fedeli. Il lieve sentore di incenso. Tutto fa di quel luogo una perfetta oasi di pace interiore. Ma allora perché il confessionale elettrico non si dà pace e continua a imprecare? I misteri della fabbrica di polli. Fabbrica di polli. Pollo in sbattimento, ma adesso cosa c'è? Cosa fai con quella Bibbia nella zampa che rischia anche di attento, cadere? Cosa volete che faccia? Non so, la leggi? No, guarda, la tengo nella zampa, no? Tutta incastrata, così comincio a camminare con la zampa sola, mi creo una zoppia, ma certo che la leggo, no? Ah, vabbè. Okay. Anche se però non capisco, i polli non si parla mai, qui c'è di tutto. Ma nella Bibbia? Ci sono agnelli, capretti, serpenti, profeti, vabbè, patriarchi, mai. Diluvi, vabbè, sì. Padri, figli, figli del mondo, ma dei polli mai? Allora cosa la leggo a fare? Vabbè, ma la Bibbia è un libro antichissimo. È un grande long seller. No? Leggerla non ti farà male. No, sarà pure così. Intanto però nel frattempo ho incontrato un gruppo di polli devoti, no? E questi qui hanno cominciato a farmi tutto un discorso strano, no? Cioè, che io potrei cambiare, che sono meglio di quello che sembra, che il mondo è cattivo, ma che si può essere buoni. E intanto mi hanno infilato sta Bibbia da leggere. Occhio alle sette, Pollo, E come alle sette? Ma non è mica mezzanotte. È mezzanotte. Ma no, ma le sette religiose, Pollo. Ma no, che sette sette? Però attenzione, bisogna stare attenti a queste cose. Vabbè, ma cosa dicevano esattamente i polli devoti? Non posso bere, fumare, bere il caffè. Episcopale. Episcopale non se ne parla neanche. Episcopale. Ma cosa fai allora? E sto in casa e leggo la Bibbia, no? Cosa devo fare? Vado in chiesa sabato e il resto della settimana sto a casa. Leggo la Bibbia e faccio gli affari miei. C'è tutto sulla Bibbia. Guarda che c'è scritto anche quello che succede domani, e dopo domani. Invece di guardare il telegiornale leggi la Bibbia. Perché tu mi hai sentito parlare di Apocalisse? È l'Apocalisse di Giovanni. Ecco, e guarda che arriva, e arriva prima di quello che pensi tu. Perché tu i telegiornali li guardi così come un bamba, ma se tu li senti bene e fra le righe capisci che sta arrivando, allora voglio vedere, perché arriva per tutti il momento, capito? E mica tutti ci salvano, pochi ci salvano. Ma da cosa? Dall'Apocalisse? Eh sì! Da quando Dio scende in terra? Adesso torna giù, torna adesso giù. È il momento che torna giù, perché l'aveva detto che tornava giù quando qua proprio era il disastro. Adesso è così. Quindi adesso torna giù. Non quando c'era Hitler 60 anni fa, adesso. Ma no! Hitler era solo lui e c'erano anche dei buoni. Adesso buoni non ce n'è più. Ah, ho capito. Adesso qui c'erano tutti c'è delle alleanze che contro natura, eh. E dopo due o tre volte capisci che hanno ragione loro. Perché carta a carta, c'è scritto sulla Bibbia, dici la bestia, e la bestia sono gli americani. E allora Gesù torna giù e fa un disastro. C'è qualcuno che si salva. Ah già, perché qui la bestia, che è quella di cui parlavo prima, gli americani, tu devi fare quello che dicono loro. Se no ti mettono un marchio, fanno una carta di credito che tu sei segnato, che non puoi più fare commercio, poi non puoi più comprare e non puoi più vendere, e qui non puoi più mangiare. E c'è il marchio. Tu vai lì, c'è il marchio in fronte, marchiato sulla pelle, vai in un negozio e dici mi dai un chilo di pane. E no, non vedi che c'è il marchio? Allora Gesù arriva e dice adesso basta, sta bestia mi ha rotto un po'. Va bene fino a un certo punto, va bene Hitler, Stalin, Pol Pot, ho capito, ma adesso la bestia no. Io spero di salvarmi, e leggo la Bibbia, e io vado in chiesa tutti i sabati, non bevo vino, non bevo caffè, episcopale, me lo sono dimenticato, e allora io mi salvo. Voi due no, voi due no. Scusi lei, mi sembra un pollo iscritto all'Opus Dei. Io l'ho vista, sa, lei lascia tracce matiche in città. Scusa, sai, ti do del tu, ma non ti sembra un po' blasfemo stare con le chiappe al vento, con la frusta in mano, a dir l'Ave Maria, Maria, Maria, ti amo. Chiedi a me se vuoi due calci in culo, chiedi a me. Però se c'è un grande difetto nella fabbrica è proprio l'assenza di tabaccaio. Vabbè, solo quello, vabbè. Ma dico io, ma cosa ci vuole a mettere anche solo una macchinetta con le sigarette? Vabbè, ma le sigarette di paglia non sono male, no? Sono come il caffè d'orzo, ma bravo. Dai. Non è male se non hai mai assaggiato il caffè di caffè. E poi le sigarette in certe zone d'Italia le chiamano proprio le paglie, quindi dai, una paglia. Vabbè, ma quindi tu adesso vuoi dirmi che sei contento di fumare il fieno? Ma bravo, l'importante è che non mi tocchi fumare il letame, il concime e poi mi va tutto bene. Perché qui ormai... Forse almeno paglia giamaicana. Vabbè, fammi fare un tiro. No. Come no? No, fatene una tutta per te, scusa, pagliacela finché vuoi. Ma insomma, dai, ma perché fai così? Perché? Che gusto c'è fumare due paglie singole quando potremmo fumarne una e scambiarcela e a ogni tiro sottolineare la fratellanza che ci lega? Ma quale fratellanza e soprattutto quale lega? Amen, fratellanza, man. Universal fratellanza all over the world. Incredibile fratellanza. Che cosa succederà adesso? Il pollo in sbattimento entrerà a far parte della setta dei polli devoti? Alleluia. E se sì, che ne sarà di lui? Non dimenticate di risintonizzarvi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo ecumenico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Roberto Accorneo,